La versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, e grazie dell'ascolto in diretta e in podcast anche in questo pomeriggio del 6 gennaio della Befana, cioè, che tra l'altro, per paradosso che mi porto dietro sorridendo da una vita, è anche il compleanno di mia madre, quindi auguri mamma. E in questo pomeriggio della Befana io ho deciso di pagare un tributo a una lettura che la settimana scorsa mi ha solluccherato, mi ha mandato in visibilio, perché siccome oramai sono vecchio e sono anche un po' orgoglioso e piegato nell'orgoglio, per quello che sapete, non mi capita spesso di trovare una pagina di giornale da cui al termine della lettura mi trovi così, come devo dire, sorpreso per quello che ho imparato che non conoscevo, sorpreso per il taglio di quello che ho letto e assolutamente anche, tra virgolette, contento di quello che ho letto. Direte, ma di che cosa stai parlando? Ecco, proprio il giorno della Befana è un tributo che pago non solo a chi ha scritto quell'articolo meraviglioso. Sto parlando di un articolo pubblicato dal Foglio giovedì 29 dicembre, la settimana scorsa, una pagina intera, che ha proposto la lettura dell'Iran non come si fa abitualmente, con interpretazioni molto sottili per addetti ai lavori della geopolitica sull'analisi di questa o quella figura del regime iraniano rispetto al passato, chi è più vicino al radicalismo di Ayatollah, chi invece è più riformista, che è il modo in cui da decenni abbiamo imparato a seguire, per chi è dedito a questi temi, l'evoluzione nel tempo del tentativo dell'Iran, degli Ayatollah, di affermare la propria leadership sciita nel Medio Oriente, un tentativo tra virgolette molto aiutato dagli effetti disastrosi, devo dire, successivi all'intervento militare in Iraq, visto che quella egemonia si è allargata nell'area non solo all'Iraq, ma facendo un ponte con il Libano e gli Hezbollah è arrivata anche in Siria. Non è un caso che la settimana scorsa ci sia stato l'incontro a tre per il cessato il fuoco e poi per, come prima base per dare le carte del dopo Assad in Siria, tra Russia, Iran e Turchia di Erdogan. E invece no, questo articolo mi ha regalato un taglio a me ignoto, per ignoranza, di cosa dietro la superficie degli eventi politici di questo quel leader iraniano muove davvero in questi anni, fuori dalla nostra attenzione, un fiume carsico che si vede e non si vede, ma che in realtà è di portata gigantesca. E qual è questo fiume carsico? Il ruolo delle scrittrici iraniane come testimoni del cambiamento dal basso della vita in Iran, al di là di quello che sostiene il regime. Vi leggo una frase per farvi capire. Per chi giudica Teheran dai suoi governanti non cambia mai niente. I carcerieri buoni si alternano a quelli cattivi. L'Iran resta sempre lo stesso, ma basta guardare più a fondo, basta prendere in mano un romanzo per rendersi conto che non grazie alla politica, ma a dispetto della politica, una rivoluzione culturale sta ridefinendo gli equilibri tra grandi e piccoli, uomini e donne, madri e figlie. Ecco, è questo il tema di questo articolo. L'ha scritto una persona che io conosco da anni, da quando era giovanissima, e che ha una caratteristica. È italiana, ma è anche persiana, è iraniana, di lì viene la sua famiglia, è impregnata di quella cultura, la conosce dal di dentro. Si chiama Tatiana Buturlin, grazie di essere con noi per questo un po' particolare pomeriggio dedicato alle donne che scrivono, ma alle donne dell'Iran, e a te per consentirci di capire meglio quello di cui hai scritto e per descriverci meglio in cosa consiste questa trasformazione. Grazie di essere con noi, Tatiana. Grazie a te per la generosissima presentazione. No, generosissima. Cioè, io devo dirti la verità, qualcuno dei nomi delle scrittrici iraniane che in questi anni vendono 100.000 e alcune anche 200.000 copie, tu scrivi in un paese in cui quando un romanzo va bene in Iran se ne vendono 5.000, mi era nota, ma tutte insieme è così? Assolutamente no. Io tra l'altro ho qualche... anche remora a citare nomi, perché sicuramente sbaglierei la pronuncia, per così dire. Però mentre per esempio sapevo di Fariba Vafi, Shiva Rastui non sapevo chi fosse. Allora, puoi provare un secondo a dirci in che cosa consiste questo fenomeno delle scrittrici di cui parli e che cosa davvero rappresentano in termini di evoluzione sotto la superficie politica della società iraniana oggi? Sì, sono veramente un fenomeno rivoluzionario, perché davvero dominano le classifiche e sono tante, quindi essendo tante sono tutte portatrici di sensibilità diverse, quindi anche di generi letterari diversi, di valori anche letterari diversi, per cui c'è veramente di tutto, c'è chi si va dal realismo magico a un approccio molto più minimalista, e quello che è davvero interessante è quanto siano ascoltate, quanto siano lette, quanto siano vive, culturalmente vive nella cultura iraniana, quanto vengano apprezzate e quanto, nonostante la censura, poi la loro influenza sia palpabile. Per cui è davvero un cambiamento epocale. Le più lette sono davvero le donne, e questo ha un'influenza molto profonda nella cultura iraniana. Perché tradizionalmente i grandi letterati iraniani erano sempre stati uomini, per cui è proprio una rivoluzione profonda. Ma tu però citi esempi anche negli anni di parecchio successivi alla desegregazione femminile che nell'Iran viene dichiarata dalla monarchia nel 1936, però ancora negli anni 60 tu citi una poetessa che muore giovanissima, 32 anni, ma che comunque dopo quasi 30 anni di desegregazione femminile, e cioè di ciò che poi la rivoluzione di Khomeini considererà la perdita di questo ingenuo carattere che le donne devono sempre mantenere, stare nella parte della casa chiusa a tutti gli altri, nella parte privata, essere sottomesse, essere mute, silenziose e così via. Però ancora negli anni 60 una poetessa che tu dici oggi tutti citano fece insorgere tutti i maschi iraniani. Sì, ma perché questo è anche perché la cultura iraniana era ed è comunque, continua anche a esserlo, nonostante tutto, abbastanza ambigua rispetto al ruolo delle donne. Per cui se si pensa che ancora in quegli anni, negli anni 60, in cui le donne in Iran girano con la minigonna, si giravano con le minigonne, si vestivano, si truccavano, ma gli intellettuali dell'epoca erano molto così, avevano un rapporto problematico, per cui se si leggono con questa nuova presenza femminile nella società, per cui se si leggono anche i libri più importanti pubblicati in quegli anni, nei libri pubblicati da uomini, da grandi letterati, le donne sono figure che li mettono in crisi. C'è un libro molto famoso che si chiama Il Principe di Golshiri, in cui è proprio evidente questo rapporto, questa difficoltà a vivere con questo nuovo modello di donne, che non è il modello di donna tradizionale, ma non parlo di un modello di donna tradizionale perché porti necessariamente il velo, no? Questo ha a che fare relativamente con il velo. Il problema è più del fatto di una donna che esce fuori nel mondo, rivendica delle scelte, e quindi non è una questione solo estetica, è una questione che va al di là di quello che una donna porta, che c'entra con la sua personalità, con il suo modo di esprimersi. E quindi ancora in quegli anni il fatto che una donna come Farrukh Farrokhzad, che poi è diventata, purtroppo lei non l'ha mai saputo, non è mai stata consapevole del successo che poi ha avuto, dell'influenza che ha avuto per generazioni intere di donne e anche di uomini iraniani, è un mondo, quello a cui assistiamo adesso è un mondo completamente diverso, in cui a prescindere appunto dalla politica, da quelli che sono i valori che la Repubblica Islamica vuole conculcare, c'è un grandissimo fermento nella società iraniana, per cui i ruoli sono completamente in via di ridefinizione. A volte è buffo osservare anche iraniani che arrivano dall'estero, spesso da Los Angeles, che noi iraniani chiamiamo anche un po' Irangeles, no? Perché ci sono zone di Los Angeles che sono totalmente colonizzate dagli iraniani, e arrivano pensando di ritrovare dei valori e dei modi di vivere, una mentalità che era quella di un tempo, e invece tutto sta cambiando, per cui anche i rapporti tra i sessi, appunto tra i giovani e piccoli, che sono proprio infarciti di rispetto, di cose non dette, di ambiguità, stanno cambiando, per cui a volte siamo più, diciamo così, quasi all'antica rispetto a certe cose, noi che siamo fuori dall'Iran rispetto a chi vive in Iran, e questo è forse per gli stranieri è abbastanza difficile da immaginare. Allora, Farouk Farrukhzad è esattamente la poetessa, appunto, di cui parlavo, morta nel 67, 32 anni. Tu dici che in realtà i veri germi, la radice, anzi, strutturale di questa, sia pur lenta da allora, affermazione di un diverso costume attraverso la letteratura, che però è il racconto dell'evoluzione della cultura e della presenza femminile nell'Iran, avviene con gli 8 anni della terrificante guerra con l'Iraq. Gli uomini vanno al fronte in Iran, e qui le donne, come avvenne nell'Italia della prima guerra mondiale, le donne, c'è bisogno delle donne nelle fabbriche, negli uffici pubblici, eccetera, eccetera. E in realtà, finita la guerra, poi è difficile rimandarle a casa. Sì, assolutamente, perché spesso viene, diciamo così, incoraggiata quest'idea dell'Iran, no? Per cui grazie alla Repubblica Islamica, grazie ai mollah, che le donne si sono riappropriate di uno spazio pubblico, perché con il fatto di la protezione del velo hanno esplorato terreni, luoghi, ruoli che prima non erano loro accessibili anche per scelta. In realtà questa è una cosa che è vera per alcuni tipi di donne, sicuramente non per tutti, perché se è vero che la fine della segregazione nel 1936 è vissuta in maniera molto problematica per molte donne, lo è stata meno per altre, per cui non è un argomento che è valido per tutti. Però proprio dal punto di vista pratico la realtà è che gli uomini non c'erano, e quindi il regime, che inizialmente non era così affatto favorevole al fatto che le donne occupassero dei ruoli e fossero così visibili nella società, si è dovuto arrendere, e poi appunto è stato molto difficile dire a queste donne, che comunque avevano fatto carriera, che erano nelle amministrazioni, di tornarsene a casa. E una volta fuori queste donne hanno chiaramente iniziato ad immaginare altri ruoli possibili, quindi anche a scrivere. Allora, a proposito del ruolo del regime, citi un romanzo di una delle scrittrici più famose dell'Iran di oggi, correggimi se ne sbaglio la pronuncia, Fariba Vafi, come si dice? Sì, Vafi, ecco. Vafi. Ed è un romanzo anche tradotto in tedesco nel 2015, che si chiama Tarlan, in cui a un certo punto si descrivono le guardiane della rivoluzione, le guardiane dell'ortodossia rivoluzionaria. In Iran ci sono corpi dello Stato incaricati di sorvegliare sul rispetto dell'ortodossia, di come ci si veste, eccetera, eccetera. Le guardiane dell'ortodossia rivoluzionaria che sbucano all'improvviso dai camoncini, gridano aggiustati il velo e ti strafinano un dito sulle labbra per minacciarti con una traccia del tuo rossetto. Però tu dici, la portata straordinaria del raccontarle e umanizzarle. Sì, perché si tende sempre a pensare all'Iran, ma questo non solo tutti, anche noi iraniani, che c'è un noi e che c'è un loro, c'è chi si identifica con i diktat del regime e chi non lo fa, e che quindi c'è una cesura molto netta. E invece anche attraverso la letteratura, anche attraverso queste storie, si impara a capire che donne magari anche molto diverse da noi, in realtà cercano, anche loro stanno cercando di invadere spazi nuovi, di uscire da quello spazio, da quella casa che ci avvolge, che non è il velo, ma che sono quegli steccati mentali che ognuna porta dentro di sé, e che quindi anche una guardiana della moralità in realtà sta facendo qualcosa per sé e anche per gli altri, in un certo senso, di rivoluzionario, di nuovo, cioè un'affermazione di sé. E raccontare questi punti di vista così diversi, il fatto appunto di moltiplicare questi punti di vista e non solo di raccontare donne che sono così in bilico tra modernità e tradizione, e che però magari vivono in Occidente, hanno esperienze, diciamo così, più vicine anche alla nostra, di lettori un po' orientali o un po' occidentali, invece di calarsi dal punto di vista un punto di vista così diverso aiuta anche molto alla comprensione, ci fa sentire tutti un po' meno nemici, ci fa capire l'altro. Ecco, però io ti devo chiedere, ma la risposta me la dai tra un minuto per il traffico, l'informazione di servizio, rispondimi a questo: quando è uscito in Iran questo romanzo in cui si parlava in questo modo del guardiano dell'ortodossia e della moralità, il regime è rimasto muto, non ha detto niente, ha scatenato qualche reazione sotto la superficie senza mostrare la mano, oppure assolutamente nulla? Tra un minuto la risposta di Tatiana Butolini. Sono Giorgio Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica di Giorgio Telesforo. Il sabato e la domenica a partire dalle 19:15. Soundcheck, sempre soltanto su Radio 24. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati a parlare in questo pomeriggio della Befana, di come in realtà le scrittrici, le narratrici, le poetesse iraniane di questi anni, noi non le conosciamo, ma rappresentano questo grande fiume del cambiamento, del diverso protagonismo delle donne nell'Iran di oggi rispetto alla cristallizzazione che tutti quanti noi abbiamo in testa, no? Quella imposta dal regime degli ayatollah. Ed è con noi Tatiana Butolini, italo-persiana, che ha scritto un meraviglioso articolo su questo. E ci eravamo fermati a un punto parlando di una grande scrittrice, Fariba Vafi, che descrive le guardiane della moralità. Ma quando è uscito questo romanzo in Iran, il regime ha detto nulla? Ma intanto questo romanzo non descrive queste figure di donne, poliziotte e così via in maniera negativa, no? Per cui non né in maniera aggressiva, è proprio un racconto, anche per questo è un punto di vista interessante, secondo me. E quindi non, poi chiaramente è un regime in cui c'è la censura, per cui quando una volta che un libro viene pubblicato, cioè è più, diciamo che l'attenzione è sempre più quella dei lettori, delle lettrici e del mondo letterario in generale rispetto a chi viene rappresentato, ai ruoli che queste donne ricoprono, al valore della storia. In questo caso non è una storia in un certo senso negativa per il regime, anzi. Per cui l'aspetto interessante è anche quello, che ci siano delle storie che non sono necessariamente contro o per, sono solo delle storie. Poi chiaramente c'è un substrato di critica sociale che può essere interpretato sociologicamente in un modo o in un altro. No, ma ho capito, non c'è l'intento dichiarato e né... No, non è un intento critico, non è puntare il dito, però questo è interessante. Però tu dici, se uno guarda le eroine di questi romanzi, quelle per esempio dei romanzi di un'altra grande scrittrice che citi, la Parsipur, e l'immagine tradizionale delle donne iraniane, si capisce comunque che c'è un'enorme diversità. Ma la domanda diventa, l'enorme diversità è anche questa sottesa, o riesce in qualche maniera anche a affrontare il tema che l'uomo iraniano deve comandare e la sua donna in realtà deve stare muta, zitta e obbedire? Ma ci sono entrambi gli aspetti, nel senso che tra i libri di Shahrnosh Parsipur e quelli, non so, di Fariba Vafi c'è una distanza anche temporale, no? Per cui questa nuova ondata di romanzi, che poi questi romanzi in Iran vengono pubblicati ovviamente con l'imprimatur del Ministero della Cultura. Ah beh, certo. Per cui c'è sempre una variazione a seconda delle condizioni politiche, quanti più romanzi riescono a passare, a seconda della temperie così politica momentanea che c'è. Però Parsipur è stata censurata, è stata in prigione, insomma ha avuto una vita piuttosto travagliata e adesso è negli Stati Uniti. Ed era un tipo di scrittura anche diversa, di stili diversi. È quella la meraviglia di questo rinascimento che è in atto, che ci siano tante voci diverse, che ci siano figure che appunto contestano molto di più questo sistema patriarcale che c'è in Iran e che di certo non ha portato Khomeini, ma che c'era già da prima, no? Per cui figure che invece immaginano altri destini per le donne, perché Parsipur era altrettanto critica nei confronti così dell'atmosfera culturale che c'era prima della rivoluzione. Per cui non è una cosa solamente legata alla religione islamica, qualcosa che esiste a prescindere da quello. E invece donne come scrittrici, come Sharipova sì, e tante altre nuove. Ci sono quelle che sono, diciamo, più critiche nei confronti del ruolo degli uomini, ma anche nei confronti del ruolo delle donne, che spesso sono sottomesse, che si adeguano a un'idea di femminilità in un certo senso addomesticata, invece rivendicano di poter essere più libere nelle loro scelte. Per cui l'aspetto interessante è proprio questo, che ci sono quelle più apertamente critiche, che esprimono molto di più la forza, la volontà di cambiare le cose, e quelle che invece in cui la critica è più sottile, no? In cui si contentano di raccontare basta, o comunque in cui è tutto molto più velato e più sfumato. Quanto di questo fenomeno, perché di questo in realtà i settimanali ne parlano da anni e così via, pubblicano le fotografie della, tra virgolette, la dolce vita degli appartenenti alle più ricche famiglie del bazar di Teheran iraniano, e però dicono in realtà sì, questi fenomeni di giovani che hanno rombanti automobili occidentali, di ragazze che seguono tutti i più, tra virgolette, avanzati criteri della moda, del trucco, eccetera eccetera, occidentali, fanno una bella vita totalmente sottratta ai controlli dei guardiani della moralità, ma il tutto di solito, così viene rappresentato, è circoscritto a un elitarissimo mondo di ricchissimi che non hanno niente a che vedere con il resto dell'Iran. Questa rappresentazione è forzata, e quindi c'è un cambiamento generale? Io a leggere il tuo articolo dico no, qui c'è un cambiamento. Ovviamente non sto parlando delle parti più agropastorali, certo, però sto parlando delle grandi città che non sono solo i ricchissimi del bazar. Ma però la domanda te la devo fare, è così o no? Ma ovviamente ci sono gli stereotipi, no? E dentro gli stereotipi a volte c'è anche un barlume di verità, però sono come delle immagini fisse, non sono delle immagini veritiere, perché come quando scatti una foto di una persona in una determinata posizione o in un momento della giornata, è quella la rappresentazione, ma la rappresentazione non è solo quella. E così l'Iran è molto altro, nel senso che è come, non si può non tenere conto del fatto che non solo la tecnologia, ma i satelliti, i prodotti culturali, ma dalle cose più negative alle droghe, tutto, voglio dire, l'Iran è completamente diverso da quello che viene rappresentato. Ma quello che io speravo di raccontare in questo articolo è proprio questo, che il cambiamento vero in Iran, che spesso noi osservatori così aspettiamo, e in realtà poi rimaniamo sempre delusi perché ci aspettiamo che il cambiamento poi venga anche incarnato da delle figure politiche, quelle non ci sono, no? Aspettiamo dei grandi modelli. Il cambiamento sono anche tante persone che compiono tanti piccoli gesti ogni giorno, come prendere in mano un libro, scriverlo quel libro. E questi modi di vita diversi, questo assumersi la responsabilità di determinate scelte ogni giorno, è un cambiamento inarrestabile. Come dire, posso deviare il corso di un fiume, ma non posso, ma quest'acqua prima o poi verrà fuori da qualche altra parte, prima o poi esploderà tutto questo. E se si leggesse davvero questi libri, se si conoscesse davvero l'Iran e non ci si soffermasse appunto sugli aspetti così più esteriori, se si guardasse allo stereotipo ma anche dietro allo stereotipo, si vedrebbe davvero come tutto è diverso, come anche tanti modelli che anche appunto anche noi osservatori più o meno distaccati o più o meno coinvolti abbiamo dell'Iran, in realtà sono già cambiati e tutto è già in movimento, appunto. Anche appunto non solo le relazioni tra i sessi, no? Tra gli uomini e le donne sono completamente cambiati, come vivono le famiglie, come gli uomini aiutano le donne, come i ragazzi e le ragazze convivono, quello che leggono, le serie TV che guardano, le abitudini, la produzione culturale cambia le persone, non è solo un fattore esteriore. Ci mancherebbe altro, e questa è la sua straordinaria forza, e la politica viene dopo di solito, non è la politica che anticipa. La politica viene dopo, ed è proprio perché il regime è così consapevole dell'impatto della produzione culturale che ne ha così paura. È proprio questo il motivo. Ma oggi se dovessimo dare qualche dato, il tasso di partecipazione delle ragazze, delle giovani italiane, per esempio, alla formazione di terzo livello, cioè quella universitaria, più o meno in che percentuale stiamo? Le ragazze iraniane? Sì, che frequentano l'università più o meno. Ma le ragazze iraniane sono sopravanzano di molto i maschi. Oh, e qui lo sapevo, per questo volevo dirla questa cosa. Addirittura spesso è stato anche fatto, ma si parla di creare delle facoltà che siano proprio inaccessibili alle donne, perché sono talmente tante, riescono talmente bene negli studi che si vorrebbe impedire loro di accedere a determinate facoltà considerate più maschili. È scattata una sorta di protezionismo dei panda al contrario, perché esatto, gli uomini esatto. Non riescono a ottenere risultati analogamente elevati, cioè per capirci, perché io sono convinto che molti tra coloro che ci ascoltano questa gli sono come una novità, e invece no. Anche perché io sono convinto di una cosa, ma questo per la mia lontanissima esperienza quando ero giovanissimo, l'unica volta che ho posto piede lì, io sono convinto che in realtà nel nostro paese, ma nell'Europa occidentale in realtà, la ricchezza della cultura del mondo iranico ci è pressoché totalmente sconosciuta. Ma la colpa di questo è una colpa nostra ed occidentale integralmente, oppure no, secondo te, Tatiana? Ma è sempre colpa di entrambi, no? È colpa degli occidentali, nel senso che è sempre più facile attaccarsi a quello che già si conosce o fare confusione, o agli iraniani dire che sono arabi e loro si offendono da morire e così via, no? Perché la semplificazione purtroppo è così, cioè si riassume, si sintetizza per cercare di spiegare meglio, ma a forza di sintetizzare si perde tutta la complessità e poi non rimane più niente, perché rimangono solo gli stereotipi. Vabbè, ma questo però dobbiamo superare, perché se noi non ci riappropriamo della capacità di dialogare su basi di conoscenza minimamente reciprocamente condivise, rimarrà un mondo dal quale ci aspettiamo solo il peggio che viene dalla politica, mentre lì ci sono decine di milioni di uomini, donne, giovani, tra l'altro l'età media è molto bassa, che rappresentano la vera forza con cui interloquire. Io non posso che sperare che Tatiana Buturini vi abbia regalato in questo pomeriggio gli stessi tipi di reazione che hanno dato a me, perché io veramente l'ho riletto 3 volte quell'articolo e l'ho ringraziata. Ringrazio Tatiana Buturini e vi lascio con un verso che lei citava di Farzaneh Milani: le mie poesie sono le mie spade. Ecco, questa dovrebbe essere la grande riscoperta che grazie a Tatiana Buturini, per l'Iran e le sue donne, oggi abbiamo tentato di trasmettervi. Grazie ancora.